io penso al resto, dite mi fido, ora la tengo, mio caro Figaro, intendo, intendo, porterò meco la borsa piena, sì quel che vuoi, ma il resto poi, si dubiti che andrò a cadere, andrò. Ma che d'amore la chiama io sento, che musica di giù, e si consento. D'ardore insolito quest'alma accende no, e di me stesso ma dormi qua e le monete il suo già sento no, che d'amore già viene l'angelo la fiamma io sento già viene l'angelo non si odi eccolo già viene l'angelo e di come eccolo già si accende eccolo piccolo quando insomma questa mi scende d'ardore insolito questa notte c'è di nello, c'è di nello di me stesso di me stesso ogni fa c'è di nello, c'è di nello di me stesso ma ogni fa due la quindici facciata bianca cinque parrucche alla moderna e per l'insegna una lanterna cinque rocche la trina Thank you.

Signorino, non ho trovato, non ho trovato, parlano fuori. Signorino, un'altra volta quando parlano fuori, la consegna di Vittorio su quello che saprà. Signorino, un'altra volta quando parlano fuori. Signorino, un'altra volta quando parlano fuori, la consegna di Vittorio su quello che saprà. E non sei non morta, sta pure la gatta morta, faccia pure, la gatta morta. Questo fuoco la porta, nemmell'aria, nemmell'aria potrà. E Rosalia innocentina, sconsolata, disperata. E non sei non le smorfie, faccia pure la gatta morta. Questo fuoco la porta, nemmell'aria potrà. E Rosalia innocentina, Stop and scream, whoa! per ridere e sofer crepò. Volle strenar. Per ridere e sofer crepò. Oh,

Eccellenza, vado! Al tuo piacere! Vieno e paniere, fa penitenza! Fame non ho! Oh, mi rincresce! Va di tua nesce, io, da! Va! Oh. Thank you. non sei contento? Tanto. Tornalo a dire. Tanto. Lo dici male. Lo dici male. Non posso sperare il nostro casetto che butta solo la sua Thank you. Va, Tosca. Non posso

Thank you.

Thank you. 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。 Thank you. 真正的女神不一定长发披肩，也可以潇洒干练。 真正的女神不一定全身名牌，也可以一身戎装。 真正的女神不一定来自秀场，也可以走进军营。 来当兵吧，